Victoria. 20 minuti dopo, ancora non aveva trovato le chiavi. Non erano in nessuna delle giacche né nel cassetto dell'ingresso. Possibile che fossero nei jeans di Malte in camera? È vero che dormiva come un ghiro, ma era meglio non sfidare il destino inutilmente. Socchiuse la porta della camera e sbirciò nel buio. Una vampata di birra e sudore le assalì le narici. «L'ultima volta», mormorò tra sé in russo, prima di entrare il più in silenzio possibile. Non appena gli occhi le si abituarono all'oscurità, vide i larghi jeans gettati su una sedia accanto alla finestra. Mentre tastava delicatamente il tessuto, le chiavi caddero a terra con un tonfo. Victoria si gelò, trattenendo il fiato. Malte borbottò qualcosa. Dormiva ancora o si era svegliato? Respirando più piano che poteva, Victoria si chinò a tastare il pavimento con la mano, finché incontrò il metallo delle chiavi e le strinse forte perché non tintinnassero. Poi si sdraiò pancia a terra e strisciò verso la porta.